come i suoi, Linda, forse non li hai. Ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Bella sempre, dolce come lei, Linda, forse tu non sei. Tu non dici che resti insieme a me, però non mi abbandoni mai. Tu non mi lasci mai. Ti cerco e tu ci sei. Ti cerco e tu mi dai quel che vuoi. Non fai come sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai.